stendeva su di noi e ci dava un po' di più, senza chiederci perché, senza chiederci perché. Liu già sapeva tutto di sé, ma con gli occhi guardava te e con la mano cercava me, con la mano cercava me. E io sì, t'avrei trovata per far l'amore. Liu, sul letto caldo o su un divano, ingigantita su un falso piano, io mi ricorderò di te, io mi ricorderò di te. E io sì, t'avrei trovata per far l'amore. E io sì. Senza un'emozione, lasciati sola senza troppa intenzione. Io non ti perdo se mi stringi le mani, non t'ascolto se mi chiedi domani. Siamo ancora insieme come stasera, siamo ancora insieme come stasera.